Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Come previsto e prevedibile, il tira e molla sui fondi europei è già iniziato, tra idee di cabina di regia, di task force e tensioni nella maggioranza, comprese quelle sul fondo salva stati, il famoso MES, sul cui utilizzo il Partito Democratico torna ad insistere. Il tutto mentre c'è da registrare, per gli appassionati del genere, una spaccatura sulla legge elettorale, con Italia Viva che vota insieme a Forza Italia. Se siano schermaglie estive o qualcosa di più, ce lo dirà il tempo. L'attenzione resta puntata, naturalmente, anche sull'evoluzione delle indagini sulla caserma dei carabinieri di Piacenza. I magistrati sono al lavoro e nel mirino ci sarebbero le coperture ricevute dai superiori. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Possiamo iniziare? E possiamo anche finire. Questa è l'ultima puntata della stagione di 24 Mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 24 luglio, sono le 6:32 minuti. Mi mancherete nelle prossime settimane, mi mancherete anche i più cattivi di voi, quelli che tutti i giorni buttano là un insulto, un'accusa, anche voi, sì. Carmelo Lauricella all'altra parte del vetro fa il segno di Pinocchio, del naso che si allunga, ma no, non è vero, Carmelo, mi mancheranno davvero. E appunto, c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza e redazione, che non ne può più, è stanchissimo anche lui. E tutta la redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. La stessa squadra con la quale ricominceremo dal 31 di agosto. Ricominceremo il 31 con qualche novità. Ne saprete qualcosa più avanti, proprio nel corso, anche nel corso del mese di agosto. Allora, da cosa iniziare a prescindere dai saluti e dai ringraziamenti a tutti voi? Direi che possiamo prendere il via dalle questioni europee, del fondo europeo, del Recovery Fund, dopo gli esiti del Consiglio europeo. Come si diceva ieri, un Conte che vincitore all'estero non è detto che lo sia in patria, ma non perché non sia un buon risultato, come abbiamo detto, quello raggiunto a Bruxelles, ma perché ad aspettarlo ci sono i partiti che vogliono prendere in mano la gestione di questi fondi. E ci sono le indicazioni che arrivano dall'Europa. C'è un Parlamento europeo che deve decidere, attenzione, e che non è un granché d'accordo su come è stato concepito il Recovery Fund, per tutta una serie di motivi. E c'è un'Europa che guarda a noi con attenzione anche dai suoi vertici italiani, come quello del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Servono programmi, servono progetti, servono riforme, questo è un tempo di riforme e di investimenti. Nessuno si può sottrarre a questo impegno, a questa responsabilità. C'è anche una grande attenzione qui in Europa, come sapete bene, da parte delle polizie di tutta Europa, perché queste risorse così importanti non debbano essere né disperse né andare in mani sbagliate. Ho sentito la Presidente von der Leyen parlare con preoccupazione di... Un'Italia ad un bivio, dice il Presidente della Camera Fico. Siamo a un bivio, un'Italia che può crescere, un'Italia florida, un'Italia che avrà ancora più rispetto in Europa e nel mondo, e un'Italia invece che avrà solamente un debito perché non ha saputo sfruttare tutto il momento storico che aveva davanti e anche questa grande opportunità. Quanti decenni è che sentiamo parlare delle riforme da fare, dice un ascoltatore. Sì, l'abbiamo detto anche l'altro giorno con Paolo Mieli. E adesso il mantra è fare le riforme. Speriamo che si facciano questa volta. Davvero, davvero. Poi c'è tutta la polemica sulla proroga dello stato di emergenza al 31 di ottobre, molto dura la Lega su questo, Salvini. Io temo che non sia incapacità, temo che sia complicità. Questo governo è nato perché l'Italia tornasse a essere il campo profughi d'Europa, è complice dei criminali, punto. Questo non è un giudizio politico, è un giudizio oggettivo, e spargono gli infetti. E poi alcuni giornalisti scrivono allarme, focolai, stato d'emergenza, ci credo. Se importi non lavoratori ma infetti, magari è una strategia per tenerci sotto lo stato di emergenza fino al 31 ottobre. E questa è la battaglia che ha imbracciato la Lega sullo stato di emergenza. A proposito di infetti, di focolai, c'è un po' di allarme a Capri perché tre romani che erano a Capri sono stati trovati con il Covid-19, positivi al Covid-19. E si polemizza ancora sulle parole di ieri di Vincenzo De Luca, ve le abbiamo fatte sentire, quelle nelle quali quella parte del suo discorso nel quale diceva a Bergamo, a Milano, in sostanza si brindava e poi dicendo facciamo gli aperitivi, non ci si ferma, eccetera eccetera, e poi si sono ritrovati con le migliaia di morti. Anche qua interviene Salvini. Mi fa schifo, cioè uno che continua imperterrito a ridere dei morti di Brescia, di Bergamo, di Milano è una persona che mi fa schifo e mi fa pena. Non so se mi fa più schifo o più pena, perché ridere dei morti è una cosa veramente incommentabile. Controreplica De Luca. Io credo di non dover rispondere nulla al soggetto che lei ha chiamato. Sono riusciti a fare una speculazione vergognosa, indegna, sciacallesca, sulla base di una banalissima osservazione oggettiva fatta da tutti in Italia, cioè che in qualche realtà del nord si sono prese delle misure con qualche ritardo. A proposito di riforme, l'ascoltatore scrive: ma il mantra non era basta burocrazia? Sì, anche quello, però rientra nel grande capitolo, no? Il mantra è: e ora le riforme. Il sottomantra è: e ora la riforma della pubblica amministrazione. O la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Un'altra cosa che sentiamo da tempo immemore. Del resto stiamo preparando i nostri ragazzi nella maniera migliore, grazie ai nuovi banchi con rotelle. La ministra Azzolina. Questi banchi qua permettono agli studenti di lavorare in gruppo, di lavorare peer to peer, di avere un approccio all'apprendimento diverso. Possiamo parlare dei costi, però. Dico solo un'ultima cosa. E infatti vengono utilizzati in quelle scuole che fanno soprattutto parte delle cosiddette avanguardie educative. Massimo rispetto per la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, magari ha ragione. Esprimo un filo di perplessità sul fatto che il modello educativo, il modello di istruzione cambi sulla base di come è fatto il banco, no? Cambia sulla base di come decidi di modellare l'istruzione, non su come è fatto il banco. Il banco è un di cui. Poi c'è tutta la questione, i banchi non ce ne avremo abbastanza. Le aziende del settore hanno detto: guardate, se le volete entro metà agosto, come dite, entro la fine di agosto, più di 120.000 non riusciamo a produrne, ce ne vogliono 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 7, hanno detto i presidi. C'è solo un fornitore del sud-est asiatico che può darvi questa fornitura e non è detto che siano a norma, così la ministra. Io mi fido ovviamente del commissario di governo, perché è un commissario di governo, non è nemmeno il commissario del Ministero dell'Istruzione. Ma è se un poi i banchi non governo. Arrivano... Ma io perché devo pensare che i banchi non arrivino? Cioè perché dobbiamo in Italia sempre accendere un dibattito sterile sul fatto solo, che le cose solo non per possano questo, accadere? Ministra. In un momento forse inappropriato, sia nel momento nel quale l'Europa dimostra una certa unità, arriva ad un accordo importante, lo abbiamo detto tutti, un accordo storico, poi potremo discutere dei singoli dettagli, però ha una sua rilevanza, arriva Gianluigi Paragone e fonda il partito Italexit per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, nel momento nel quale dobbiamo beccarci questi 209 miliardi. Via. L'unico partito politico che mancava era questo, nel senso che l'unico partito politico che con una tesi chiara e con una posizione netta rispetto all'Europa dice fuori dall'Unione Europea manca. Soldi che arriveranno dall'anno prossimo, nel frattempo c'è l'insistenza, come sapete, sul MES, sul Fondo Salva Stati da parte del Partito Democratico, ma c'è un'altra questione, come ci si arriva a dicembre? E qua fatemi pescare, sapete che Guido Crosetto, abbiamo avuto ospite tante volte, è uno non facile all'arrabbiatura, è uno sempre calmo, ieri in televisione si è invece un po' innervosito. Va benissimo, hai vinto tutta l'Europa, 20 miliardi a gennaio sono importantissimi. Parliamo da adesso a gennaio della gente che morirà di fame. Ve lo volete mettere in testa che non è una guerra tra centrodestra e questo governo, ma di gente che muore di fame? A me non frega niente dei voti dei sovranisti, mi frega della gente che sento tutti i giorni chiamarmi e dirmi che non ce la fa a sopravvivere e a mantenere i figli. E prendiamo il via proprio da qua. Saluto Don Benoni Ambarus, direttore della Caritas Diocesana di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Eccoci qua. L'abbiamo chiamata perché ieri abbiamo letto su Avvenire che ha lanciato un allarme per quello che sta succedendo nella capitale, per quello che si vede anche nelle strade e che poi non è ancora registrato dai numeri. Un aumento delle persone che vivono per strada, un aumento delle persone che accedono alle vostre mense. Riesce a darci un quadro? Il quadro è molto semplice, che le conseguenze della pandemia sociale cominciano a rivelarsi adesso come i funghi dopo la pioggia, perché sempre più gente non facendocela più e va a finire semplicemente per strada. Buona parte di queste persone, oltre alle 7-8 mila che già vivono per strada a Roma, gli altri che si stanno aggiungendo giorno dopo giorno ad ingrossare le file di questa specie di esercito disperati, sono persone che stanno uscendo dai circuiti di accoglienza e persone che vivevano stippate in affitti in nero, ovviamente, perché non lavorando più in nero, non riuscendo più a pagare l'affitto, l'unico spazio è montare una tendina adagiandosi beatamente sotto le campate delle mura antiche o semplicemente lungo il marciapiede. I numeri, 6.000 famiglie che vanno a prendere i pacchi alimentari nei 30 centri appositamente aperti alla comunità di Sant'Egidio in tutta la città. E poi voi, quello che raccogliete voi con le vostre mense, che segnali ricevete dal punto di vista proprio dei numeri? Dal punto di vista dei numeri, soltanto i presidi della Caritas diocesana stiamo intorno ai 7.000 famiglie, però bisogna calcolare tutte le altre che nella rete delle Caritas parrocchiali si sono rivolte in questo periodo, e quindi lì arriviamo le circa 7.000 della Caritas diocesana, alle altre sono circa 20.000 famiglie che hanno chiesto aiuto per la prima volta e che sono emerse così purtroppo da un quadro di fragile equilibrio sociale. E le mense, abbiamo avuto un aumento di 20.000 pasti al mese in questo tempo della pandemia. 20.000 pasti al mese, più 20.000 pasti al mese rispetto, a quelli che già fornivate. Il traffico, resti con noi. Ed eccoci di nuovo con Don Benoni Ambarus, direttore della Caritas diocesana di Roma. Ci ha parlato Don Benoni Ambarus di casi di marginalità, di persone che venivano magari da lavori in nero e che quindi si sono ritrovate anche senza casa. Ricevete segnali anche da, come possiamo chiamarli, nuovi poveri, persone che un lavoro regolare ce l'avevano, magari un contratto a tempo determinato oppure partite IVA, piccoli imprenditori che finiscono per rivolgersi a voi? Purtroppo sì, sono tantissime le categorie e le persone, e io dico sempre, guardate che non si può ragionare su numeri, bisogna ragionare su drammi umani, e ogni persona che si rivolge a chiedere aiuto è un dramma per la persona ed è una grande umiliazione. Sì, purtroppo sono moltissime le categorie anche di partite IVA, liberi professionisti, che non ce la fanno, ma questo sta sotto gli occhi di tutti, un pochettino in tutta Italia, ecco. Magari una città come Roma poi ha un alto tasso di lavori anche irregolari o in nero, chiamiamo le cose così come stanno, e che ha rivelato la quarta grande povertà della città di Roma, il lavoro in nero. Il lavoro in nero. Secondo lei cosa si dovrebbe fare? Ma di recente il governo ha fatto quell'iniziativa degli stati generali. Va bene. Adesso c'è stato l'accordo con l'Europa. Va bene. Sì. Io non vedo ancora qual è il grande sogno di futuro dell'Italia. Diversamente rischiamo di fare una distribuzione anche significativa a pioggia dei fondi senza ricreare servizi essenziali. Cioè il diritto alla casa deve diventare un diritto fondamentale dell'uomo, se vogliamo, come Irlanda l'ha messa proprio in qualche modo quasi nella Costituzione, no? Il diritto alla casa per le persone fragili deve diventare un diritto. Facendo uno sforzo, per esempio, da questo punto di vista, però in ottica di sogno di futuro, bisogna fare scelte che sappiano di futuro, non tamponi o pronto soccorso sociale. Il pronto soccorso sociale ci travolgerà tutti quanti. La ringrazio, è Don Benoni Ambarus, direttore della Caritas diocesana di Roma, e rimaniamo sulle persone in difficoltà dal punto di vista dei redditi e torniamo a parlare di cassa integrazione. I dati di ieri ci raccontano di un tiraggio di cassa integrazione, compresa quella legata all'emergenza Covid, tra gennaio e aprile al 34,4%, ma al di là di questo, caro Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, ascolto a tutti. Buongiorno. Volevamo tornare a fare un punto con lei su come sta andando la distribuzione della cassa integrazione, perché qua noi abbiamo ascoltatori che ogni volta che citiamo l'argomento c'è qualcuno che ci scrive: guardate, io sto ancora aspettando quella di aprile. Cioè, ci sono situazioni ovviamente che sono rimaste là incancrenite. Quante sono? Come siamo messi dal punto di vista dei numeri, Loi? La domanda è molto interessante, le dico con franchezza, noi abbiamo una funzione di vigilanza e non di gestione, è qualche settimana che non escono dall'istituto, da chi ha la responsabilità, diciamo, come si usa dire, gestionale, operativa, dati completi, lo dico con chiarezza, insomma. Quindi c'è, cioè, non vi stanno fornendo i dati a voi, diciamo, che siete il consiglio di indirizzo e vigilanza? Non sono aggiornati, arrivano solo dati su quanti sono stati pagati, famosi, non voglio annoiare gli ascoltatori, famosi SR41, cioè il punto finale di un percorso che l'azienda fa quando chiede la cassa integrazione. Quindi questo oblio fa pensare che ci sono ancora una serie di problematiche. La prima è quella che consulenti e aziende sanno: da quando mando la domanda a quando arriva l'autorizzazione e dopo il pagamento. La mia stima, la nostra stima che facciamo è che si sta sommando al vecchio gruppo, dove sono compresi quelli che hanno preso magari marzo ma non aprile, e cioè qualche decina di migliaia, centinaia di migliaia per aprile e maggio, le nuove domande che sono arrivate dal 18 di giugno. Ci sono circa 120.000 domande nuove, diciamo, con i nuovi decreti che sono arrivate in queste settimane, e la cui lavorazione, se non è rapida, creerà un doppio problema: la mancata salto, diciamo, della precedente ondata con quella nuova. Insomma, ci stanno circa, appunto, 120.000 domande, sì, a ieri, che sono adesso giacenti all'istituto. La stima che facciamo noi è che, con intensità diverse, mancano da 400.000 a 800.000 pagamenti. Alcuni sono più recenti da fare, altri sono invece incancreniti. Come dice lei, noi siamo sfortunati, io sono sfortunato, io conosco solo quelli che non l'hanno avuta, sì. Saranno, come dire, un'eccezione, ma credo che capiti anche a voi, tutte, sì, persone che si lamentano. Mi scrive un ascoltatore, poi chiaramente quelli che l'hanno ricevuta non si lamentano. Scrive un ascoltatore: sì, buongiorno, dice: buongiorno, anche io aspetto quella di maggio. Ci scrive un ascoltatore: i numeri che ci ha fornito Loi sono impressionanti, ma questo dipende da cosa? Dal fatto che ci sono molte domande che non sono state nemmeno esaminate ancora. Non sono state nemmeno esaminate e quindi poi autorizzate. Dall'autorizzazione parte tutto un iter, soprattutto per chi, come è noto, non è in grado di anticipare come azienda, per mancanza di liquidità o per scelta o per obbligo, diciamo così, che devono aspettare poi la certificazione da mandare all'INPS, che a sua volta paga direttamente il lavoratore. Una procedura complicata di suo, che abbiamo già detto altre volte, è drammaticamente inattuabile in maniera fluida quando c'è da pagare 10 milioni di persone nell'arco di 2 mesi, 3 mesi. Il sistema, anzi, pagamenti più che persone. È come se il sistema fosse andato fuori giri, Loi. Inadeguato rispetto alla grandine che è arrivata. Rispetto alla dimensione della. E tra l'altro, con le nuove norme si è sommato, da quel che ho capito, un nuovo e ulteriore problema, ossia che le aziende devono esaurire l'eventuale cassa integrazione precedente. Sì. E, se ho capito bene, le aziende forniscono i dati delle giornate di cassa integrazione, esclusa la domenica, che ovviamente è un festivo, e però l'INPS calcola dentro anche la domenica, e quindi il meccanismo non mi è ben chiaro, però da quel che ho capito sta creando una confusione pazzesca anche qui. Confusione, perché le settimane si trasformano in giorni, per cui aver esaurito le 9 settimane famose della prima ondata di decreti, tanto per capirci, e poi altre 9, anzi 18 settimane si trasformano in giorni, se questi giorni equivalgono a, faccio a caso, 100, ma io ne ho consumate 9, prima devo consumare l'ultima giornata e rifare la nuova domanda. La nuova domanda però non è le 9 settimane finanziate col decreto rilancio, è 5 settimane, finite quelle chiedo l'autorizzazione per le altre 4, questo è stato fatto per evitare la richiesta, diciamo così, a prescindere, che alcune, sì, aziende hanno fatto, quindi 9 l'ho chiesto, le deve esaurire, poi ulteriori 4, ulteriori 5, poi finite le 5, ulteriori 4. Adesso a fine mese si spera, anzi speriamo prima, arrivi il nuovo decreto e sarà un'altra procedura ancora. Nella penultima procedura, come è noto, c'era anche l'opzione dell'anticipazione al lavoratore del 40%, per cui l'azienda chiede l'autorizzazione, poi comunica all'INPS: guardi, anticipate al lavoratore il 40%, quindi doppia procedura, perché poi c'è il saldo del 100%. Insomma, il gioco dell'oca, no. Purtroppo. Ma scusi, rido. Anch'io rido, ma chiedo perdono agli ascoltatori, soprattutto quelli che sono in attesa, appunto, la cassa integrazione ci conferma almeno 400.000 persone. Però rido perché è il famoso rido per non piangere, perché sì, è pazzesco. Ridiamo per non piangere dopo aver ascoltato, come dire, la testimonianza su Roma, che su Roma, sulla situazione di Roma. Napoli, Bari, Milano sono ovviamente urbane molto complicate. Grazie Guglielmo Loi, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, e poi conterà, presumo, e sono d'accordo gli ascoltatori che lo scrivono, conterà anche la questione di quanti dipendenti erano effettivamente al lavoro e quanto stavano lavorando nell'INPS. Un'ultima voce da farvi sentire, non abbiamo toccato, ma poi ci arriveremo in rassegna stampa, il tema dei carabinieri, dell'indagine sulla caserma di Piacenza. E qua l'intervento più duro forse è stato quello di Ilaria Cucchi, la quale dice: non si parli di mele marce. Il fatto che si parli di mele marce lascia un po' perplessi, è un sistema che evidentemente non funziona, e io spero, mi auguro con tutto il cuore che questa volta si vada fino in fondo e non si facciano sconti a nessuno, perché i fatti sono di una gravità assoluta. E la procura effettivamente pare interessata a investigare anche sulla catena di comando. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa con Paolo Mieli, a tra poco. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.